Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, c'è Matteo Comes in regia e ovviamente Franco Piantaneda in redazione. Basta uno scudetto, scopro leggendo i giornali di oggi, per diventare l'allenatore più pagato d'Italia. 3 milioni annui fino al 2015. Gran bel colpo, Antonio Conte. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma cosa ci farà con tutti quei soldi? Chissà che vacanze. Ci godiamo questo stipendio importante sotto tutti i punti di vista. Penso sia il risultato comunque di una grandissima stagione dove abbiamo vinto un campionato meritato. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, infatti questi soldi poi verranno distribuiti anche a un po' i giocatori, perché è anche merito loro. Me la godrò. Sì, però in finale di Coppa Italia Napoli vi ha dato legnate, vi ha fatto ribozzi, come dicono a Roma. Ma sì, vabbè, però diciamolo onestamente, abbiamo perso un po' la coppa del nonno, cioè è un po' l'abbiamo mangiato la torta e abbiamo lasciato la ciliegina agli avversari. Questo è un po' il senso, cioè poi a voi posso dirlo, poi in conferenza magari dicevo che l'ho dispiaciuto. Sì, vabbè, perdere non fa mai piacere, però insomma sì, la torta ce la siamo magari, mangiata noi. Magari bere un po' meno in quella settimana lì non era una brutta idea. Sì, abbiamo forse qualcuno che non è abituato a vincere, esagerato. Io sinceramente sapete che anche da calciatore ho vinto molto, quindi ero abbastanza tranquillo. I giocatori sono un po' distratti, ma ripeto, la torta l'abbiamo mangiata noi. La coppa del nonno al Napoli. Senta, ma Del Piero non poteva giocare un po' di più in questa stagione, perché l'ha trattato anche Maluccio, riscaldamento nei minuti di recupero, poi va in campo a fare l'ultimo dei panchinari, non mi è piaciuto. Ma insomma, guarda, Alessandro è un grande campione, ha accettato alla grande questa cosa, io l'ho dosato come sapevo, cioè non è che posso fargli fare 90 minuti a uno che nelle gambe c'è 30, ragazzi, oltre al discorso avete meglio di me che l'ho dosato nel modo giusto, e infatti Alessandro è stato decisivo, io ve lo dico in esclusiva, io spero che Alessandro Del Piero rimanga ancora un altro anno. Sì, infatti rimarrà, le voci sono queste. Rimarrà, e allora sono contento, grazie per avermelo detto che io non lo sapevo. Molto gentile. Fuori dallo scherzo, bravissimo Michele Negroni. Ciao Michele. Ciao a tutti. Senti, adesso magari gli ascoltatori si arrabbiano, ma voi scherzate sempre. Sì, ci piace scherzare, ci piace giocare quando si parla di pallone. Ma di che squadra tieni? Io sono juventino, ma quindi proprio. E poi Conte era un idolo anche da calciatore, quindi è un onore per me farne l'invitazione. Adesso la prossima potrebbe essere quella di Del Piero che rimane. Si potrebbe, è un bello spunto questo qua, si potrebbe studiare. Ascolta, ma non è che con questi tanti soldi dati a Conte ne restino pochini nel salvadanaio per il top player di cui la Juventus ha bisogno? Ma da Antonio Conte o da Michele Negroni? No, te la chiedo da Antonio Conte, naturalmente. Da Antonio Conte, guarda, ma sinceramente la tattica del top player poteva essere anche un'altra, se te la dico velocemente, non rinnovare il contratto a Del Piero, no? Quindi Del Piero sarebbe libero. Poi c'è da comprare il top player, sì. E chi prendiamo secondo te? Alessandro Del Piero. Giusto. Questa era una tattica di Marotta, io gli ho detto però Beppe, è una tattica bella, però alla fine forse un top player servirebbe. Senti, io penso che arriveranno i campioni. Antonio Conte, suggeriscici un altro modo per prenderti in giro che non sia quello del parrucchino, perché sinceramente quello mi ha un po' annoiato. Tutto l'anno non è un parrucchino, sono capelli veri. Bravo, gli shampoo Conte, adesso faccio anche pubblicità. Shampoo Conte, lo shampoo importante per un capello arravante. Questo è il motto. Stanno andando a Iosa, eppure Caceres lo usa. Caceres è soprannominato il pelato, no? Sì. Perché lui era pelato, prima che lo conoscessi era pelato. E invece poi ho conosciuto Antonio Conte, ma che chioma che c'ha, sembra Pocahontas. Grazie Michele, alla prossima. Grazie a voi, grazie per i complimenti. Grazie Michele Negroni. Sì, ci piace giocare. Allora, 800 24 00 24, numero verde. 349-238-6666, messaggi SMS, sì, ci prendiamo anche un po' in giro. Quello che vi faccio sentire invece adesso è un Original One, Zdenek Zeman. Io premio salvezza non l'ho mai fatta, perché per me dovrei pagare io se retrocedo. Per me non esiste premio salvezza, e quindi si possono fare i premi per Coppa UEFA, per Champions. Perché c'è tempo, tempo al tempo. Io non c'ho fretta, non c'ho fretta nessuno. Ci sono tante squadre senza allenatore, ci sono poche squadre che hanno riconfermato. Penso che nessuno ha fretta e tutti vogliono valutare, variare quello che può succedere. Si può dire tutto, è contrario di tutto. Quindi quando ci sono le cose fatte, se le parla, come si sono fatte e perché si sono fatte. I miei giornali devono scrivere qualcosa, riempire. Io ripeto, io mi sono accorto, a parte che sono già arrivati più di 500 messaggi, complimenti, che alla gente piace il mio calcio. Poi ci sono esperti che già un po' devono storcere il naso, però come io faccio calcio per la gente, mi tiro dietro la gente. Non c'ho correnti, non c'ho dietro le spalle sponsor. Scusate, Zeman con la musichetta boema, bellissima, ben pescata da Franco Piantanida, però una botta di sonno me l'ha fatta venire. No, anche se dice tra le righe una cosa importante: resto sì, ma vediamo, è lunga, è presto, eccetera. Lo vuole mezza Italia, un terzo dell'Italia, facciamo così, dalla Lazio al Genoa, e poi ce ne sono anche altre in fila. Io credo che alla fine possa rimanere lì dov'è. Dunque adesso dobbiamo fermarci per il traffico. 800 24 00 24, numero verde messaggi 349 238 6666, e c'è una sfida col petroliere. Non avreste avuto questo trattamento vigliacchi, non so se è riferito all'amico imitatore Michele Negroni, bravissimo, di prima. Se questa è una sfida, allora noi la raccoglieremo. Allora sono pronto a scommettere con voi, io che i pronostici li becco raramente, sono pronto a scommettere con voi che quello che ci aspetta sarà l'europeo di Mario Balotelli, non fuori dal campo, ma questa volta sul campo. Quindi se volete raccogliere la scommessa, cominciamo da oggi. 800 24 00 24, numero verde. Massimo, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Gente. Ascolti, vabbè, io sono juventino, l'altro giorno lei parlava di trapattoni nel campionato italiano. Sì. E io stavo pensando al fatto che oggi va molto di moda nelle ultime settimane Di Matteo, no, fresco vincitore della Coppa. Scusi, l'ho sentita male, mi può ripetere? No, dicevo che ultimamente è di moda Di Matteo, fresco vincitore della Coppa, no? Mm. Pensando a Trapattoni, io mi chiedo, se Trapattoni avesse fatto due partite come quelle che il Chelsea ha giocato col Barcellona. Sì. Probabilmente l'avrebbero massacrato. Sì, ma sono luoghi comuni, Massimo. Sono luoghi comuni. Sono luoghi comuni, insomma. È chiaro che Di Matteo ha giocato all'italiana. Di Matteo è stato molto. Ma come doveva? Ma cosa poteva fare altrimenti? Niente da dire. Però cioè, oggi una squadra che oggi. Come si dice? Un complimento che si fa a una squadra è quando ha tutti i giocatori dietro la linea della palla. Negli anni 80 invece Trapattoni, se giocava così, non era squadra compatta. Sì, no, chiaro. È quello che voglio dire. No, allora era catenaccio, adesso è gioco organizzato. Quindi oggi il Trap forse potrebbe rispondersi bene. Sì, c'è qualcuno. No, ma il Trap si difende bene ovunque vada, soprattutto per la sua intelligenza, però. Guardi, io ricordo la partita capolavoro dell'Inter sulla strada della Champions League del triplete. Secondo me la partita capolavoro fu a Barcellona, contro il Barcellona in 10, dove giocò una partita espressamente difensiva, null'altro che difensiva, con grande organizzazione, con ossessiva copertura degli spazi, eccetera eccetera. Insomma, nel calcio, ma Mourinho stesso gioca in quel modo, salvo quando non si inventa formazioni bizzarre, perché la necessità di bel gioco spagnolo lo impone. Ma sono molte le squadre che giocano in questa maniera, e sono molte le squadre che in questa maniera fanno risultato, in questa stagione in particolare, perché insomma, perché abbiamo visto anche in Champions League delle sorprese, dall'Apol Nicosia ad altre, fare molta strada, certo non giocando un calcio alla Zeman. Intanto mi fa piacere dire che Donatella Scarnati, collega, illustre collega, su Twitter fa i complimenti a Michele per l'imitazione di Conte. A qualcun altro non è piaciuto, mi importa relativamente, io mi sono divertito. Dunque, Domenico da provincia di Catanzaro. Pronto? Pronto, dica. Pronto, buongiorno. Innanzitutto la saluto, dottor Genta. Salve. E faccio i complimenti per l'imitazione precedente di... Carina, il signore che ha imitato Conte. Sì. È stato davvero splendido. Sì. La mia domanda era, io sono un tifoso del Milan, volevo chiedere questo. Sì. In merito al calcio mercato che sta, diciamo, operando il dottor Gagliani in questo periodo, io più che altro mi concentrerei sulla formazione, diciamo, tipo del Milan, che Allegri continua a correre con questo rombo di centrocampo. Io credo, ho visto un sacco di partite in Europa, seguo su Sky la Premier League, insomma, tutti i vari campionati tedeschi. Credo che questo sistema di gioco del rombo non sia molto adatto, insomma, a privilegiare in Europa. Questo è il mio pensiero. Ma secondo me, guardi, secondo me è il Milan che non è adatto a primeggiare in Europa perché non ha un organico all'altezza, ma questo lo ripeto dall'anno scorso, anche in questa stagione molte volte ho detto il Milan è la squadra più attrezzata e più forte d'Italia, poi si è fatta soffiare lo scudetto con pieno merito della Juventus, dalla Juventus e con pieno merito della Juventus naturalmente. Però il Milan non è attrezzato per l'Europa, a meno che non si voglia credere alle favole che raccontano Imbiaturati, non sarà attrezzato per l'Europa la prossima stagione. Non è una questione di rombo, ma di interpreti, è una questione di organico. Non vedo il Milan all'altezza di Manchester United, lasciando stare la fine che hanno fatto Manchester City, Barcellona, Real Madrid. Non lo vedo su quel livello, quindi non credo sia una questione tattica. Carlo, Milano. Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, senta, io avevo una domanda, ma l'ha già fatta l'ascoltatore precedente, le farò solo una richiesta di servizio. Allora, dia una risposta, qual era la domanda? Scusi, la domanda, scusi. Ma Gigi Garanzini poi tornerà a dirigere questa trasmissione o meno? Gigi Garanzini sarà qui per i campionati europei, per il tempo dei campionati europei. Peccato, mi stavo già rallegrando di questo fatto, che rimanesse lei, peccato. Poi torno. No, poi torno, Carlo, poi torno. Dopo gli europei torno. Ma queste sono comunicazioni di servizio, insomma. Fedele, da Verona. Eccolo qua, buongiorno. Eccolo là, buongiorno. Innanzitutto complimenti all'imitatore, che all'inizio pensavo fosse Conte veramente. Poi la Bene, seconda cosa, accetto la scommessa, io attraverso Verona in diagonale in mutande, se Ballotelli nella prima partita, non è europei, nella prima, sì? Non fa qualche ballottellata. Non fa qualche ballottellata. Allora Fedele, esatto. Adesso le prendiamo la targa, cioè il numero di esatto. telefono. La poi, prendo se... pure, la faccio tutta in diagonale, come ecco. vuole, la faccio, perché sicuramente una la fa. Fantastico, allora adesso le prendiamo il numero e poi se invece Balotelli facciamo segna il gol decisivo alla Spagna, lei però esegue, veniamo a controllare. Immediatamente le mando anche il video. Molto bene, presa, grazie, punto grazie Fedele. Non esiste, punto forte la mia famiglia. Ma la cosa della testa è ormai da troppo tempo che c'è e io non sono d'accordo e sinceramente non ci faccio neanche più caso a quello che dicono di questo. Se devo crescere magari nella un po' nella tattica, poi tecnicamente chiunque, ogni calciatore giovane col tempo migliora. Della testa sinceramente mi sono un po' stufato di sentirlo dire. Tutto ciò che riguarda il mercato sinceramente non mi riguarda, perché io l'ho detto che io voglio rimanere a Manchester e starò a Manchester. Poi non è un trucchetto di Mino, io rimango a Manchester, quindi rimango a Manchester. Se Thiago Silva viene al Manchester City, di sicuro siamo più forti. Why Always Me, che un rapper inglese ha dedicato proprio a Mario Balotelli, che ieri ha detto tutte queste cose in conferenza stampa, compreso il fatto: io Cassano non saremmo i più forti, ma di sicuro siamo i più chiacchierati. Ma va? Ma guarda caso, che stranezza. No, io sono pronto a scommettere che giocheranno tutte e due un grande europeo, ma non ho idea di dove possa arrivare l'Italia, però sono convinto che Mario Balotelli esploderà, come d'altra parte ha detto, si è augurato Cesare Prandelli. Sul fatto che rimanga al Manchester City io ho i miei dubbi e me li tengo, nonostante l'abbia ripetuto mi sembra 4 volte, un po' troppe, un po' sospetto, ma insomma, al di là di questo, la visita di Mancini l'altro giorno in Via Turati sono certo non sia stata casuale, non sia stata una visita di cortesia. Mario da Milano. Carlo, buongiorno, è sempre un piacere. Buongiorno. A parte che devo dire che ci sono cascato anch'io come un gioppino prima, come un e gioppino. Pensavo fosse veramente Conte, invece poi si è scoperto l'arcano. E niente, quindi faccio complimenti all'imitatore perché è veramente bravissimo. Sì. E io vorrei che lei mi aiutasse un attimo a capire la strategia, il mercato, diciamo la tattica del mercato e anche di comunicazione del Milan, perché da quello che dicono, da quello che dice la mia dirigenza, perché io sono un tifoso del Milan, sì, vogliono tornare al top, vogliono tornare a vincere in Italia, vogliono tornare a vincere soprattutto in Europa, ma per vincere ci vogliono gli investimenti. Con i parametri zero è un po' difficile. Con i parametri zero si possono fare dei gran bei colpi, come il Milan ha fatto nelle ultime stagioni, con i parametri zero o comunque con giocatori come Nocerino che sono stati pagati un pugno di dollari, insomma, però è evidente che c'è una contraddizione in termini: voglio fare una squadra che vinca la Champions League, ma non voglio spendere una lira, quindi un euro, quindi c'è una evidente contraddizione in termini. Non mi risulta che i denari da immettere sul mercato siano tanti, in Via Turati, e quindi io immagino una cessione per finanziare un mercato all'altezza. Giocatore ovviamente che ha maggiore mercato, che Galliani non può nasconderlo, non lo ha nascosto, ma non può farlo, è Thiago Silva, intorno al quale c'è l'assedio delle spagnole che contano, c'è l'assedio dei mecenati degli arabi inglesi, e dunque Galliani ha detto: proveremo in tutti i modi a trattenerlo, ma non ha continuato la frase, chissà se ce la faremo. Francesco Pescara. Buongiorno. Senti, io premetto che essendo Juventino, quest'anno sono al settimo cielo, ovviamente. Doppietta, Doppietta la grande. Ci è mancata la ciliegina, come diceva l'ottimo imitatore, che me l'ho apprezzato tantissimo, sono veramente molto simpatico. Non capisco chi possa offendersi, però vabbè. Ma qualcuno si offende, sempre, ma è bello così, perché è pieno di code di paglia in giro, sai, sì, Francesco. Sì. Io chiamavo per avallare in pieno la sua ipotesi su Balotelli. Secondo me farà un gran bellissimo europeo, sarà protagonista, anche se vedo purtroppo favorita quest'anno l'Olanda. Secondo me potrebbe fare un bel, se Sneijder, Van Persie e Robben si ritrova Robben dopo le delusioni della Bundesliga, della Champions League, potrebbe fare un ottimo europeo. E poi volevo chiedere un consiglio, così, se chi sceglierebbe come top player, facile, domanda facile, per la Juventus capabili, diciamo, quelli che sono si sentono nominare, anche se ho paura che sia sempre la solita bagarre, alla fine ci abbiamo un pugno di mosche in mano, non lo so. Un grande attaccante, Higuain, come leggo sui giornali, andrebbe benissimo, un giocatore che a me piace anche più di Higuain, che è sempre nel Real Madrid, che è Benzema. Serve un attaccante di caratura internazionale, perché diventa un po' difficile, anche se la Juventus, con la ricostruzione delle milanesi obbligata, con il Napoli che non si sa quale strada prenderà, diventa a questo punto la grandissima favorita per il prossimo titolo, al di là del fatto che è favorita d'obbligo portandolo sulla maglia. Però credo che per fare il salto di qualità e quindi presentarsi con una faccia, non dico da obiettivo finale, però con una faccia competitiva in Champions League, serva un giocatore in grado di finalizzare, di segnare molti gol. Secondo me Federico, che è un ascoltatore che scrive spesso, non fa una riflessione sbagliata. Balotelli è un po' matto giusto. Beh, matto giusto non lo so, non ho ancora capito, però era matto qualche volta sbagliato. Quale città e ambiente migliore per placarsi di Torino e della Juventus? La quale Juve non cerca un attaccante top? Sì, un tempo era così, la Juventus era talmente solida come società, era talmente impenetrabile come ambiente, che era la collocazione migliore per far sbollire le grandi teste calde che pure di lì sono passate. Non so se questa Juventus possa essere pronta per gestire un personaggio difficile, un giocatore difficile, un ragazzo difficile come Balotelli. Tanto le agenzie dicono che è sempre più inevitabile l'addio di Roberto Di Matteo al Chelsea, perché il tecnico italiano avrebbe rifiutato l'accordo annuale proposto dal Chelsea. Secondo me benissimo avrebbe fatto in quel caso. Secondo le fonti, Di Matteo non ha intenzione, giustamente, di restare alla guida dei Blues senza un contratto pluriennale e di fare una soluzione ponte in attesa dell'arrivo di Pep Guardiola. E quindi non bastano un FA Cup vinto e una Champions League vinta nelle 11 settimane in cui Di Matteo è rimasto sulla panchina dei Blues. Adesso, prima di continuare a parlare di calcio, perché vorrei capire un po' i titoli dei giornali di oggi sul fronte del calcio mercato con un espertissimo collega, voglio farvi sentire delle voci che col calcio non c'entrano nulla, ma c'entrano con le piscine. Volevo rifarmi dall'anno scorso, perché la prima esperienza di Shanghai dell'anno scorso era stata un po' così. Si vede che magari ero ancora troppo piccolo e era la prima volta. Qua, insomma, ci sono arrivato volendo far bene. È venuto 14,48, che è un po' inaspettato, perché quest'anno di 1.500 fatti bene non avevo quasi mai ancora fatti. Ma guarda, io fino a 50 metri dalla fine avevo paura che mi riprendesse, che sennò fino agli ultimi 2 metri ero insicuro. Poi, insomma, mi sono girato, ho visto 14,48 e contentissimo. Innanzitutto abbiamo capito che gara fare alle Olimpiadi il 2 d'orso. Mi serviva per questo, comunque sono partita per farlo bene, è venuto magari un tempo così e così, però ecco, l'ultimo mese e mezzo mi sono concentrata più sul dorso, mi risultava più facile. Veramente un'altra persona al posto mio si sarebbe preso questo sesto posto di ieri, mi sembra sesto se non sbaglio, e magari faceva la festa. Io però invece sono arrabbiata, perché col mio tempo avrei preso la medaglia, però coi sei e quei ma ci facciamo cammini ai treni, quindi non ci facciamo niente. Dunque, Gregorio Paltrinieri nell'ordine, una stella che speriamo sia nata ieri nelle piscine di Debrecen con 17 anni, con questo oro nei 1.500, e una stella a cui vogliamo molto bene, che non riesce più a brillare molto, come quella di Alessia Filippi. Saluto e ringrazio invece Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Un saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori. Senti, ciao. Vorrei che mi aiutassi a decriptare un po' i titoli di oggi partendo dal tuo giornale. Juve-Inter, sì. Che dispetti, cosa c'è sotto? Beh, il titolo credo che già sia l'emblema di questa situazione di grande fibrillazione fra Inter e Juventus. Sul piatto ci sono, guarda caso, i giovani più alla page, no? I ragazzi che hanno conquistato anche Prandelli, quindi stiamo parlando di Destro, stiamo parlando di Verratti, dello stesso Giovinco, in parte anche per Bolini, in questo caso però con la Roma. Il caso Sbelli è stato evidentemente il riscatto di Destro, che in questo momento è ancora a metà fra Genoa e Siena, ma se lo stanno contendendo Inter e Juve. Evidentemente il club di Moratti non ha gradito questo inserimento dei bianconeri e sta reagendo con delle schermaglie che vedremo poi che effetti sortiranno, perché su Verratti c'è una situazione ormai delineata, perché il giocatore in maniera esplicita ha parlato più volte, è bianconero dalla nascita per tifo, una delle peculiarità che ormai mancano nel nostro calcio, no? Iperprofessionale, in cui evidentemente alla fine il sogno di un ragazzo, quello di vestire la maglia per cui è tifato da bambino, in questa storia sembra prevalere. Certo non c'è l'accordo tra la Juve e il Pescara, e in questi casi è inserita l'Inter, che è complice anche altre esigenze del club neopromosso in Serie A, che sta cercando dei ragazzi pronti a essere nello spartito di Zeman, sempre che Zeman rimanga in Adriatico, quindi c'è questa ipotesi alternativa. Però allo stato dell'arte il vantaggio bianconero è ancora abbastanza netto. Per quel che riguarda Giovinco, che è l'altro capitolo sugoso di questa giornata, sì, di ieri, che tra l'altro oggi ho sentito Ghirardi, presidente del Parma, dire vale come Sanchez. Sì, sì, lo va ripetendo da giorni, che secondo lui al pieno del cartellino lo valuta 40 milioni. In maniera più realistica, ieri nei discorsi fatti con l'Inter, la metà del Parma è stata valutata a 15 milioni, quindi sarebbe una valutazione da 30, con una contropartita economica rilevante, 10 milioni, e altre pedine di giovani anche in questo caso. Peraltro Parma e Inter hanno già in comproprietà giocatori come Mariga, Jonathan, lo stesso Nuanco, quindi non sarebbe difficile. Qual è il problema reale di questa situazione? Anche se il PSG non ha ancora fatto la sua offerta, l'Inter si sta preparando alla cosiddetta opzione B. Se non dovesse arrivare la Vezzi dal Napoli, proprio per la forte concorrenza del club parigino, l'Inter sta pensando a un'alternativa che potrebbe essere Giovinco. Ecco, in questi termini, questo nuovo attacco. In questo secondo caso la Juventus è più impassata. Perché? Perché Giovinco in realtà non sembra essere nei piani tecnici della nuova Juve, nonostante a Parma quest'anno abbia fatto un campionato straordinario, e quindi potrebbe anche essere che alla Juve questa ipotesi non dispiaccia, se Giovinco venga ipervalutato. Quindi questa, diciamo, due piste alternative, quella prospettata ieri dall'Inter e quella che può avere più prospettiva se non andasse in porto l'affare Lavezzi. Senti, a proposito di Juventus, leggo non sul tuo giornale ma sul Corriere dello Sport che si continua a trattare Higuain. Sì, sì, quello oggi gli abbiamo dato un turno di riposo a Higuain, certo. Nel senso che noi oggi abbiamo valorizzato un'altra notizia che è emersa ieri sul fronte Higuain, che è quella di questo interesse che è emerso da Sponda Roma per Osvaldo del Real Madrid. Ed è chiaro che se questa pista fosse davvero praticabile, allora la Juve potrebbe effettivamente avere, non dico un via libera, perché Higuain costa tantissimo, perché evidentemente Osvaldo può interessare a Mourinho solo come quarta punta, no? Quindi per andare a prendere proprio il posto dell'argentino. Certo. Quindi Higuain è sicuramente tra gli indiziati, c'è anche Suarez, che dimentichiamo la scorsa settimana, Nedved e Paradis hanno avuto un incontro con gli agenti di Suarez, dell'attaccante Liverpool, anche se questa trattativa ancora non può nascere per problemi oggettivi, perché a Liverpool c'è una sorta di vacazione, nel senso che essendosi dimesso Dalglish stanno cercando il sostituto, qualcuno con cui trattare, insomma. Appunto, qualcuno quindi, con cui trattare. Beh, io quello che vedrei meglio di tutti comunque rimane Cavani al centro attacco della Juventus. Juve che nelle scorse giorni ha fatto pervenire a De Laurentiis un'offerta che evidentemente il presidente del Napoli non ha ritenuto soddisfacente, cioè 15 milioni più il cartellino di Matri. E questo è un altro aspetto di una campagna acquisti che in casa bianconera potrebbe essere davvero sconvolgente, se vogliamo usare questo aggettivo, visto che ormai il radiomercato ci fa capire che la Juve, se trova degli affezionati acquirenti o per Matri o in alternativa per Quagliarella, non faticherebbe a darli via, perché sicuramente la Juve e Conte sono consapevoli del fatto che in attacco bisogna trovare qualcosa in più, sì, tenendo conto anche dell'addio del Piero, che non solo dal punto di vista sentimentale ma anche dal punto di vista tecnico comunque ha fatto la sua parte. Juventus ha bisogno di un giocatore da molti gol, perché Pepe, Marchisio certo non possono ripetere a livello realizzativo quanto hanno fatto quest'anno. Grazie Carlo. Grazie a voi, insomma. Ciao. Grazie a Carlo Laudisa. Dunque, avete capito? Giovinco che potrebbe scivolare dalla Juventus all'Inter. C'è un ascoltatore, Piero da Torino, bianconero da sempre. Giovinco sacrificato 2 anni fa sull'altare del capitano Del Piero. Risultato del capitano: poche presenze e pochi gol. Diego, Milano. Buongiorno a lei, dottor. Buongiorno. Salve. Intanto la ringrazio per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi sembra proprio di parlare con un amico. Scusa se esagero. In realtà ho detto una piccola bugia alla sua collaboratrice. Cioè? Parlo di calcio per non smentire, ma in realtà volevo farle poi una domanda su Printesis, sì. Se posso. Sì. Allora, calcio mi sembra che la Juventus non mi ha un po' deluso, perché mi aspettavo veramente che dimostrasse di avere una mentalità vincente come suo allenatore. Ho visto che invece erano un po' seduti nella partita con Napoli, questo mi ha deluso, forse le mie aspettative erano esagerate, però ma guardi, mi è sembrata una formazione anche sbagliata. Sì, su Printesis voglio chiederle un suo commento. Quel tiro particolare che ha, come lo definirebbe? È veramente in un suo repertorio e devo dire abbastanza immarcabile, perché riesce a fare le cose nei momenti topici e bene, direi. Una specie di arcobaleno con molti colori. Ma non l'ho mai visto fare da nessuno, forse NBA qualche volta, ma in campionati europei direi che è una sua prerogativa, solo sua, o sbaglio? Ci sono giocatori che hanno dei particolari movimenti che spesso nessuno gli insegna, che poi prendono il nome, no? Che danno nome a un tipo di movimento, per esempio il Kiki Move che inventò Kiki Van Dijk, che era un arresto in arretramento. Oppure il movimento alla Djordjevic con il taglio sotto canestro per andare a tirare dall'angolo da 3 punti. Insomma, ci sono giocatori che hanno questo tipo di istinto. Anche Navarro è comunque un giocatore che ha questo tiro in corsa salendo la scala, che riesce a fare almeno con un buon profitto soltanto lui. Continuiamo a parlare insieme volentieri. Luciano, provincia di Venezia. Luciano, provincia di Venezia. Pronto, Vicente? Sì, che la sento. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'ospitalità. Ma grazie a lei. Dica tutto. Allora, fuori due cose, se mi permette. Prego. Il Milan, per il Milan che diceva prima del top, prendere il top senza... Sì. Senza... Non voleva spendere, no? Cioè vorrebbe prendere un top player a parametro zero, cosa un po' difficile. Esatto. A meno che qualcuno non litighi con la sua squadra di appartenenza, allora magari vengono fuori dei buoni affari. Sì, no. Ho preso sotto gamba. Luciano, io no, però Luciano, faccio fatica un po' a sentirla, sarà interferenze dalla laguna, però il cellulare è molto disturbato, magari ci riproviamo. Andiamo a Modena da Cristiano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, avevo chiamato perché domenica scorsa mi è sembrato molto strano che Sassuolo Regina si sia giocata con il terremoto, la Regina che la notte ha dormito in Pullman. Questa domenica, questo sabato alle 6 gioca Modena-Verona, vengono tanti, sto leggendo dappertutto che vogliono devolverli in casa qua su giù, ma qui ancora la terra sta tremando. Non è il caso, se lo show deve andare avanti, di giocare a porte chiuse, lei cosa pensa? Perché qui la terra anche ieri sera ha fatto un 4.3. Sì, io penso che sia un problema serio e reale, penso che si siano spostate delle partite per molto meno. Quindi penso sia il caso di riflettere attentamente sulla situazione. Ho letto stamattina sui vari giornali quotidiani, la cosa è grave. Cioè, sabato e domenica, quando c'è stato Sassuolo Regina, si è visto in TV, e mi hanno chiamato da tante parti d'Italia, perché si vedeva proprio la gente che scappava dalle tribune. Certo. Non riesco a capire come la gente dica dobbiamo devolvere l'incasso, ma che l'incolumità della gente, se da Verona vengono in tanti. No, io sono un tifoso del Modena, sabato non vado allo stadio comunque. No, ma io guardi, mi rifiuto di pensare che chi è preposto a prendere queste decisioni prenda sotto gamba il problema e la situazione, Cristiano, perché sarebbe semplicemente criminale. Io mi limito a notare che sono state spostate, rinviate, posticipate delle partite per motivi molto più futili. Non sono in grado io di dire quali siano le previsioni, quali sia l'attività sismica in questo momento. Però, ripeto, mi rifiuto di credere che se esiste un rischio, questo rischio non sia preso in serissima considerazione. Roberto Rimini, buongiorno. Zenta, buongiorno. Buongiorno a lei. Due cose velocissime. Prego. Per me sono il mio debole per Zeman e sul modo di fare calcio, intendere il calcio a tutti i livelli, anche mediatico. perché Zeman no all'Inter, già a pensarlo a marzo, quando si intravedeva il cambio di Ranieri? Va bene, Stramazzoni, non ho niente contro Stramazzoni, perché secondo me può essere un giovane promettente, magari da far crescere a fianco a Zeman in uno o due anni, per poi lanciarlo. Invece, si rende conto che però sarebbe una scelta molto estrema, molto coraggiosa, molto diversa da parte di Moratti, perché... Ma è vero, ma non possiamo sbandierare, è ora dei giovani, è ora di un ciclo nuovo. Poi l'anno scorso ci stava, aveva già firmato con Pescara, avevamo troppi trentenni ancora da voler tenere, ma quest'anno, che non è neanche più la Champions, e devi concentrare il tuo sforzo, che l'ha fatto vedere la Juventus, cosa vuol dire concentrarsi solo sullo scudetto, a preparare una partita a settimana. Quest'anno era la scelta per me migliore per provare a tirare fuori qualche giovane, visto che i soldi, sembra che per prendere i vari Eto'o, Balotelli, Pander, Schneider non ci siano più. Iniziare a qualche vecchietto, magari come si vuole fare con Schneider e qualche altro, venderlo. Beh, perché Schneider vecchietto neanche poi tanto. Schneider non è così vecchietto. Se parliamo di Lucio, che probabilmente andrà via, di Maicon, di vecchietti ce ne sono, di Julio Cesar, di vecchietti veri ce ne sono nell'Inter, sono tanti, troppi. Schneider no, non lo so, io continuo a pensare che insomma poteva essere una scelta interessante, curiosa, estrema. Ogni tanto salta fuori sul fronte Inter questa voce Zeman, ma credo che Moratti non abbia avuto mai seriamente il coraggio, credo, di puntare decisamente su un allenatore di questo tipo, anzi è unico, non abbia mai avuto il coraggio di puntare decisamente su Zeman. Al Giro d'Italia subito. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Ieri finalmente una tappa interessante, il tappone dolomitico con questo arrivo a 6, e sono i 6 che alla fine si giocheranno il Giro d'Italia. Joaquin Rodriguez, che ha vinto in maglia rosa con una grande impresa, Ivan Basso, che ha dato la dimostrazione di essere assolutamente sul pezzo, anche se l'arrivo era in fondo al terreno che lui ama di meno, cioè una lunga discesa. Io starei molto attento, fossi nei big designati, a Ejedal, che va molto forte a cronometro e che ieri ha resistito alla grandissima sulle rampe del Giau, che sono tutt'altro che semplici. Però è inutile star lì, oggi si può chiacchierare, domani le chiacchiere staranno a zero, domani e dopodomani, perché ci sono montagne che fanno male. Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Oggi ultima volata. Sì, oggi è l'ultima occasione per i velocisti. Sta andando tutto come da copione, una fuga di quattro corridori, hanno due minuti, il gruppo non lascia spazio, quindi presumibilmente Mark Cavendish sarà là in testa per portare a quattro le sue vittorie in questo Giro d'Italia, e penso anche poi alla fine Bon, campione del mondo, farà di tutto per arrivare anche a superare le due tappe di montagna e arrivare a Milano, perché ormai il più è fatto e ha tutto per onorare questo Giro d'Italia e portarsi a casa anche la maglia rossa della classifica punti. Come stanno andando oggi le cose? Fuga, dicevi? Di quattro corridori, ci sono dentro De Marchi, Pagani, hanno due minuti e 15 di vantaggio sul grosso del gruppo, stanno andando bene, ma la tappa è corta, tappa corta, tutta in discesa o pianura, quindi tecnicamente assolutamente... Poco da dire. Aspetta che faccio... ti saluto e devo fare la domanda agli ascoltatori, se no oggi non assegniamo il polsino di Ivan Basso. Avete tempo per rispondere magari anche dopo il programma. Qual è il paese di nascita di Gino Bartali? Io ringrazio Pier Augusto Stagi, tutti voi che ci avete seguito. Torniamo naturalmente domani pomeriggio. Oggi che giorno è? Giovedì. Torniamo domani pomeriggio con Palla a Spicchi dalle 2 alle 3. Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. A domani.